È stato Mattarella a dirci che noi possiamo venire in Italia, quindi noi vogliamo wifi, wifi, anche stipendio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sono Richard Benson. Ma buonasera, buonasera miei piccoli schifosini. Ciao Giuseppe, io ti voglio bene. Quel bastardo, questo bastardo che hai accanto, questo schifoso, sei un gabinetto schifoso. Mentre lei sta chiamando qua, a casa sua, sì. Sua moglie si sta divertendo. Mia moglie è qua accanto a me, bastardo, guarda della puttana di tua moglie, perché tu sei riccione, tu sei, quererami, merda, quererami, tu sei riccione come Macron, come Macron. Come Macron. Allora ragazzi, come avete visto, ecco. Come vi siete accorti, inizio sobrio, siamo entrati alle 18 e 37 minuti. Io vi sì, dico ufficialmente, no, vi dico 39 adesso. Adesso è vero, bravo. Che sì, cazzo, dai, sì. L'ABC proprio. Siamo entrati alle 18 e 37. Ah, quella roba iniziale dura 4 minuti, quella, no, quel 2 minuti, 2 minuti. Iniziale, io sì. Vi dico che mi sono ufficialmente rotti i coglioni, sì, e sì, mi sono sì, scocciato sì. Di avere 3 minuti e 30 di ritardo sulla trasmissione precedente. Bisognerebbe averne mezz'ora. No, mi sono, appunto, sì, ma io sono d'accordo con te. Bisogna iniziare alle 7:15. Bravo, bravo, bravissimo. Sono io, d'accordo. Ad esempio, stavo prendendo un caffè giù tranquillamente. No, ma hai ragione. Sono corso a alle 7:15. No, ma iniziamo alle 20:48. No, hai perfetto. No, iniziamo alle 20:48 e chiudiamo alle 20:49. Non ti allargare come al solito. Con lo stesso salario. Ti ho dato un dito e ti stai prendendo un braccio. 20:40. Iniziamo alle 20:40 questa trasmissione. No, ma va benissimo alle 19:15, però ufficiale deve essere che mi sono rotto il cazzo di lavorare e avere 3 minuti e mezzo di ritardo. Mi sono veramente rotti i coglioni, te lo dico in maniera chiara. Non è possibile avere un rispetto zero per il lavoro degli altri. 3 minuti e mezzo di ritardo è intollerabile. Ma quanto è intollerabile. Che polemico. Sì, sono polemico perché mi sono rotto le scatole. Polemico. Mi sono rotto le scatole. Che cavolo. D'accordo? No, d'accordo, ci vorrebbe Vanna Marchi qua. Ci vorrebbe Vanna Marchi a vendere il prodotto. Vendiamo qualche prodotto, almeno. Magari finirò a fare come Vanna Marchi. Magari finisco a fare come Vanna Marchi. Facile, ottimo, possibile. Ottimo, ottimo. Cioè non mi interessa, non mi interessa. È intollerabile. Vabbè, basta, dai. Allora, ha fatto incazzare molti ascoltatori di questa trasmissione, diversi, non la maggioranza silenziosa, l'intervento di Gino Strada ieri nella trasmissione, credo, sì, l'ho Piazza sentito. Pulita. Molto, molto bravo, è stato Gino Strada, ha detto una cosa molto bella. Sapevo che ti sarebbe piaciuto il signor sì. Gino Strada, della questa organizzazione, sì. Della della cosiddetta organizzazione Emergency, no? Emergency, ha detto una cosa molto bella, ha detto provate a sostituire, a mettere, questa è la frase che mi ha colpito di più, dal punto di vista emotivo. Dimmi. Provate a mettere alle foto, alle immagini di quei bambini che sbarcano, la foto di vostro figlio, vedrete, sto citando a memoria, che la vostra percezione cambierà, ed effettivamente è così. Cioè sostituire, mettersi nei panni di quei bambini, oppure pensare, no, che sentiamo, i nostri senti, ma non figli, non ci raccontare quello che sto per mandare in onda, cioè non stai anticipando quello che io mando in onda. Io l'ho sentito ieri, mi ha emozionato questa ma cosa. Ma che ti ha emozionato, tutte parole, tutta propaganda, dai, su propaganda. Tutte frasi fatte, dai, tutte frasi fatte. Guarda, se si vuole capire la migrazione, sì, basta fare una cosa molto semplice. Prendere una fotografia di un ragazzino su un barcone, ritagliare la faccia e incollarci quella del proprio figlio. Allora si capisce la migrazione. Adesso posso dire, ottimo, con tutto il rispetto per il lavoro, ottimo, di Gino Strada, bravissimo, bravissimo, che questa frase non ha alcun significato. No, certo, è perché perfetta, fosse invece così, fosse così, vuol ci dovremmo occupare quotidianamente, certo, di tutti i bambini dell'Africa, no, dell'Asia, dell'America Latina. Come no? Ma che populista e qualunquista? Ma cosa non c'entra? Essere populista, sovranista, ma e qualunquista. Dai, ma con questa frase riduci, no, sempre le vuol questioni. Vuol dire occuparsi, dai, di quelli che arrivano. Vuol dire capire. Sarai contento. Sarai contento che contro Zuccaro, senti, senti, contro, beh, Zuccaro, signor sì, Zuccaro. Pare ovvio. Beh, tanto voglio dire, non è uscito niente. Si tratta di chiacchiere. E mi stupisce perché un magistrato, insomma, prima di lanciare questa specie di allarme, che è una cosa molto pesante, tra l'altro, dovrebbe avere delle ragioni, dei fatti. Invece non è uscito niente. Sembra proprio una, come dire, una campagna mediatica. Il governo vuole militarizzare la questione degli immigrati. No, amico Strada, i governi di tutto il mondo, tranne quello italiano, davanti alle coste mettono la marina militare e l'esercito alla protezione delle coste. Succede in tutti i paesi normali, in tutti i paesi democratici. Solo in Italia non succede un cazzo di tutto ciò, tranne durante il G7. Durante il G7 gli sbarchi vengono deviati, certo, vengono deviati in altri posti e non in Sicilia. Questo significa che se uno vuole, quotidianamente, se uno vuole, mica ho detto che bisogna farlo, se uno vuole può piazzare tutte le navi del mondo. I militari servono a questo, altrimenti a cosa cazzo servono i militari italiani? Io mi sono fatto l'idea che sotto ci sia qualcosa, e che quel qualcosa sia il fatto che il nostro governo intende militarizzare la questione dei migranti, che intende militarizzare il Mediterraneo, che intende dare una risposta militare. Ma che vuol dire? Ma anche qui vuole militarizzare il Mediterraneo. Mi pare chiaro. Non vuol questo dire nulla. Vuol dire niente. Come no? È una frase niente, semplicissima, niente, è una cosa reale. Niente, niente, niente, niente. Comunque ci sono un gruppo di giovani, che io non approvo, per carità, non dico che approvo, che vuole acquistare delle barche per mettersi davanti a quelle delle ONG e di impedire, sì, ti giuro, così, vuole impedire alle navi delle ONG di attraccare nei porti italiani. Pare una cosa incredibile da denunciare. Attraccare nei porti italiani. Spero che tu abbia i numeri, così li denunciamo alla procura. Allora, ieri sera, come sapete, un ragazzo italo-egiziano, se non sbaglio, italo-marocchino, non so che cos'è, sì, sì, ha accoltellato, ferito, abbiamo visto, sì, diversi esponenti delle forze dell'ordine. Il signor Salvini dice che l'aggressore era italiano, perché in realtà era italiano, però è peggio ancora, secondo lui. Senti. Questo ragazzo non è arrivato ieri, non è arrivato un anno fa, è nato a Milano, quindi peggio. Si parla di immigrazione di almeno 25 anni fa. Peggio, peggio, vuol dire che anche chi è qua da più tempo e teoricamente dovrebbe essere integrato, coccolato, inserito, evidentemente non si inserisce perché un certo tipo di cultura non ha nessuna intenzione di inserirsi. Domani non vai alla marcia per gli immigrati, David? Domani non vai alla marcia per gli immigrati a Milano? Ho degli appuntamenti a ma, Roma. Ma cosa serve la marcia? Adesso, con tutto il rispetto di tutte le attività civili, politiche e militari, ma cosa serve la marcia per gli immigrati? È un'ottima hanno già tutta l'assistenza possibile e immaginabile. No, no, hanno già grande assistenza. Sono liberi di scorazzare dentro scorazzare il territorio nazionale. Vivono, come scorazzare quando no, scorazzare, non in senso negativo. Tu scorrazzi, non loro. No, ma sono Donato da Varese. Se scorrazza, loro lavorano. Ma che lavorano? A differenza di questi qua che non fanno nulla e che chiamano all'800-24-0024, quella gente allora, lì non capisco cosa significa. Cosa significa per gli immigrati? Gli immigrati sono già accolti in Italia. Per sensibilizzare ma sono già accolti. Gli diamo dei soldi. A cosa serve la marcia? Gli diamo dei soldi. Certo, gli diamo dei denari, delle che diarie quotidiane. Diamo? Una delle diaria quotidiana. Beh, certo, 44, 45, 35, quelli che sono. Chiariamo strumenti per l'accoglienza. Ma cosa? Ma ci sono già, vengono già accolti. Poi che raccolti e bene poi ma va rilanciato il grande tema. Ma della, che serve la marcia? Della, la marcia cioè, per gli immigrati, a che serve? Per ribadire all'opinione pubblica che c'è un'altra Italia, oltre a questa minima, miserabile che tu fai sentire. L'hanno fatto soprattutto in risposta a te. Incredibile. In risposta non a credo te, proprio. Perché quella che sfilerà domani perché a Milano non vanno a Capo Rizzuto? Perché non vanno a Capo Rizzuto a vedere perché quello che succede? Nella capitale perché economica non vanno a Capo del paese, nella capitale economica del paese, per farti vedere quanti sono quei migranti integrati che ogni giorno peraltro Donato, noi vediamo. Donato, dove sei? Perché non vai anche tu domani, Donato, alla manifestazione? Ma perché non non vai sue... anche tu. Ma quello è nella sua spelonca, rinchiuso lì dentro nella caverna. Chi sei morto? Stai zitto che non sei nessuno. E chi ce l'aveva questa? Con te, ovviamente. Ah, ok. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com. Vi presento La Zanzara. Parenzo, ma non ritrattare. Il tuo approccio da Lord di Wellington sortisce già un certo effetto. Se poi ci si aggiunge quel guizzo di carnalità fulminea, beh, amico mio, siamo allo schiena top. Parenzo, quando vuoi. Sì, però amica mia, se hai intenzione di fare qualcosa, non utilizzare queste parole, carnalità fulminea. Possono temo piacere a Parenzo queste, ci sia stato, queste frasi. Cioè, temo c'è stato un equivoco di comprensione, perché no, come questa qua ti si vuole fare, molto come la mia cosa. Filippina ha spiegato anche via Twitter l'altro giorno. No, questa qua ti si vuole fare. Ha usato quell'espressione per far capire ai miserabili, ma no, è un'espressione non da maggioranza silenziosa. Sì, ho capito. Lo ma ha spiegato benissimo, devo dire, la mia questa Filippina signorina, su Twitter. Questa signorina ti si vuole fare, no, molto semplice. Dice la cosa, ma so, è molto semplice. E io ti invito, tutto, ti invito. Tutto artefatto da quel criminale bandito che siede in regia e che quando fa il GR24. Ringraziano tutti, Piero La Corte alla regia, e non si permette di inserire nel telegiornale quelle vocine. Beh, no, no, questo no. Però ti dico una cosa, questa signorina, io ti consiglierei di approfittarne, sì, anche, no, anche in un periodo piuttosto breve, altrimenti perde la carica. Fatti dare un consiglio, che sei fuori uso da un po' di tempo, che sei arrugginito. Sì, cioè, questa qua è caldissima, capito? È calda, bisogna approfittarne immediatamente, senza temere, cioè, senza esitare. Dottore, cioè, all'attacco subito. Aperitivo del venerdì. Subito, Luciano, provincia di Lucca, vai Luciano. Sto? Vai Luciano, dimmi. Allora, me la posso dire in questi termini, se me la fate dire. Dipende, il giovane isolo tunisino, sì, ha cercato da forze preponderanti, si difendeva coraggiosamente, ferendo i nemici. Ha cercato, veniva fatto prigioniero. Pertanto, per il suo coraggio, si propone per una medaglia al valore, firmato generale Parenzo. Cioè, tu dici che Parenzo è a favore di quell'idolo tunisino che ha assolutamente accoltellato? No. Assolutamente. Ma non credo proprio. Assolutamente, dai. No, sì, è sì, un criminale quello lì. Assolutamente no. Te sei un criminale, non lui. Te, assolutamente. Che difende Roma e difende tutti. Quindi questa è dedicata a te. Se come generale lo proponi per una medaglia al valore. Quanto ci ha messo lei a pensare a sta stupidaggine? Voglio capire i tempi. Perché io sono... Ah, perché sono questo è creativo. Il valore di... No, lei è un cretino, non un creativo. Lei è un cretino, non un creativo. Però scusa, mi permetto di dire, Luciano, che difficilmente Parenzo, esatto, può essere a meno favore male di uno che tira fuori un coltello. Meno male. Lasciamo scusa, perdere la questione dell'ISIS. È una provocazione, logicamente, no? Cioè, tu dici lui è pronto a giustificare, no, è pronto a giustificare, no, anche giustifica quella. È una provocazione, Parenzo, penso che la pensi così. Quello che ho detto io è quello che pensa. Non Parenzo penso assolutamente questo. Io penso che quello penso sia un criminale. Anche peggio. Un criminale e un potenziale assassino. Cosa ma pensa, sì, secondo te? Cosa pensa, sì, Luciano? Lui pensa queste cose qui, come difende Rom, difende quella gente lì, tutti devono venire. Ma io non difendo i Rom. No, però difendi contro... l'immigrazione, difendi, ma l'immigrazione, certo, li chiami cercatori di felicità, cercatori li chiami di felicità, cercatori di felicità. Certo, fanno, certo, non sono marcia, clandestini. La marcia a favore dell'immigrazione, bene, ecco perché non è a favore dell'immigrazione. Una marcia patetica, devo dire, mi dispiace, il sindaco Sala è anche una brava persona, una persona che apprezzo anche, è una marcia patetica, ma è una marcia patetica necessaria, che non serve a nulla, necessaria. Andassero a Ventimiglia, andassero a Milano, la marcia dei ricchi, la marcia degli snob, la marcia delle persone chic ricchi che si dicono a favore dell'immigrazione. Ma cosa è una dici? Puttanata. Non c'è da essere a favore. Non c'è da essere a favore. Esiste già l'accoglienza. Esiste già l'accoglienza, i soldi che diamo quotidianamente alle persone, eccetera, eccetera. Dunque, è una marcia a favore dell'immigrazione, cosa se già è favorita l'immigrazione? Ma non c'è nulla di favorito l'immigrazione. Cosa stai dicendo? C'è un clima pazzesco nel paese di ostio, di astio, di odio, di astio, di livore, come si sente anche da qui. Minoranza. Parenzo non ha le palle per dire quello che ho detto io, al suo posto. Ma no, io ma dico non quello è a favore che dell'Italia Tunisino che accoltella, dai. E se insiste, la querelo. Ma no, ma lascia perdere, che c'è, bra, dai, a un certo punto. Ma chi è qua? Chi è? La moglie? Chi è? È la megera, è la moglie. Luciano? Non lo sopporta. Ma chi è? Tua moglie? Chi è? Sì, non lo sopporta. È mia moglie. Passami tua moglie un attimo. Che non lo sopporta. Ma che? È per poco mia moglie. Perché chissà moglie cosa hai combinato. E controlla la tua esistenza. Ha ragione la signora. Luciano, io la capisco. Passami subito tua moglie. Passaci la signora subito. Subito. Maggioranza silenziosa la signora. Passami la signora. Giuseppe. Così ti faccio litigare subito. Giuseppe, mi ascolti un secondo? Sì, ma passami la signora però. Non vuole venire al telefono. Ascolta, io sono quello che ti aveva telefonato dicendo l'integrazione. Entra in casa tua, non chiedi permesso. Te la ricordi questa cosa qui? No, non me la ricordo, che telefona tanta gente, Luciano. Allora, dai, veloce. Entra in casa tua, non chiedi permesso. Ti guarda con odio, usa violenza. Prende quello che c'è, a volte anche la vita. La legge dell'accoglienza lo protegge. Da oggi ha rubato la vita. Va bene? Sì, ma passami tua moglie, un attimo, un secondo solo un secondo. Ascolta, falla incazzare un attimo, falla incazzare, dice che è contraria alla tua esistenza. Ha detto che è contraria. Rispondi, a tono, rispondi. Vai il culo tu, bene, ottimo, passamela. Non si vuol parlare. Maledetta. Tutte chiacchiere distintivo, come diceva nel film, va bene. Ma quanto l'odi tuo marito? Dimmelo, solo questo, che fagli la domanda. Quanto l'odia? Quanto odi me? Alla morte. Beh, si capisce. Bel clima c'è lì in casa. Ha detto uno più scemo non ha mai trovato. Beh, c'è un bel clima familiare, c'è un bel clima. Concordo con la signora. Senti, il regista Pietro mi sta rompendo i coglioni sul fatto che siamo in ritardo. Me ne sbatto. Oggi me ne sbatto. 3 minuti e mezzo. Tiè, me ne sbatto. Ciao. Da venerdì. Crucia fino a notte. Non mi rompete. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! Stronzone! La Zanzara. Cruciani, nuovo idolo assoluto della Zanzara! Pietro da Vicenza, idolo assoluto! Quando io sento parlare quel deficiente lì che hai vicino, scusami il termine, quello è un deficiente, e anche dalle mie parti, perché io sono di Vicenza, lui è di Padova. Ma questo aggressivo patologico, quello è aggressivo, tu sei un coglione, tu sei dato sotto un cavolo marzo. Ma vaffanculo, testa di cazzo, che non hai né arte né parte, sei solo un chiacchierone e basta. Hai capito, Mona? Ma sarà vero che questo Pietro da Vicenza è uno che fattura 2 miliardi l'anno, secondo te? Ma, guarda, secondo te è vero o no? A sentir come parla, questo è già tanto. Questo non c'entra nulla, dai, lo ma sai. No, perché lo sai, ci vogliono delle abilità però anche, no? Ma che c'entra, talenti. Che questo qua non abbia delle abilità, scusa, no, come fai a saperlo? Ci sono anche i peggiori banditi, ma non sto dicendo che questo è un bandito, che guadagnano tanti soldi. Che guadagnano tanti soldi, che si esprimono in modo triviale, cosiddetto triviale. Ma un grande imprenditore non si esprime ma così. Ma che ne sai che uno che fattura 2 miliardi l'anno, ma tu conosci solo quelli di sinistra. Ma dai. Non è vero, ne conosco tantissimi di imprenditori, persone veramente tu conosci per bene, quelli cosiddetti buonisti, imprenditori cosiddetti buonisti. Ma altro conosco tanta gente, ma ti pare che i presunti imprenditori di sinistra, ma diciamo. Ma tutt'altro, imprenditori in generale, cosa pensano non lo so, cosa votano, ma gente per bene, la maggioranza si silenziosa, quella che ascolta questa trasmissione, non questa macelleria di questa gentaglia qua. 2 milioni, quanto fattura 2 miliardi questo? Ha detto, 2 miliardi. Sì, 2 miliardi, dai, ma questo è già tanto se metti sempre il pranzo con la cena, dai. Parenzo, quando vuoi. Guarda, questo Pietro da Vicenza è diventato praticamente un idolo assoluto. Un nuovo idolo di tanta gente per bene. Che si riconosce nelle parole di Pietro da Vicenza, nelle sue invettive contro il mondo islamico, contro il mondo del Maghreb. Pietro da Vicenza. Con cui si può solo parlare, ha detto, di fighe e di soldi. Ma quando parli di fighe e di soldi, ti stanno ad ascoltare. Quando parli di religione, di democrazia, di altre cose, così non gliene frega nulla. Questo diceva Pietro. E ti rimproverava di avere il prosciutto davanti agli occhi. No, di questo è impossibile, perché io, come sai, non uso, non lo tocco. Comunque, ragazzi, se c'è una cosa che a me mi fa incazzare è la questione dei vitalizi. Come sai, Parenzo, io mi incazzo sempre, però in particolare quando sento la parola vitalizio divento una belva. I vitalizi devono essere cancellati. non mi interessa quelli sono che dicono abbiamo, non sono stati cancellati, non sono stati cancellati. Infatti, ma lascia perdere come vengono chiamati, rimane la pensione, lascia perdere che sia adesso. Beh, certo, ma la pensione per gente, comunque, no, va bene, pensione che riscatteranno non va bene. Come tutti i lavoratori, no, 65 la anni. Politica non è un lavoro. La politica non è un lavoro. Chi entra in politica deve essere con le pezze al culo. Ma chi deve farlo senza guadagnarci, ma come? Campando anche certo, bene, ma senza guadagnarci. Certo, ma dunque la pensione per il via, lavoro che fa, pensione no? tolta. Ma quale? Via, ma perché non si capisce perché? Allora lo faranno soltanto i ricchi, solo ma quelli che hanno è vero, dei, non delle, è così, non è così. I possidenti, non scusa, è così, non è che la politica è? La possono fare tutti. I ricchi spesso quando sono entrati in politica non sono andati bene. Adesso sentilo, c'è il caso adesso, di Trump. Ecco il populismo, ecco il populismo. No, ma che c'entra il populismo? Non c'entra nulla. Senti questi qua. Allora c'è il signor Craveri, te lo ricordi, signor Pietro Craveri, storico, no? Storico. Sì, ha sì, fatto, ti dico, ha fatto, credo che abbia fatto mai un giorno. Non ha mai fatto un giorno in Parlamento. Ma che c'entra? Mai fatto un giorno in Parlamento. 2.381 euro. È sbagliato. Vecchie regole, ovviamente, perché rimangono, non le hanno tolte perché dicono che sono diritti acquisiti. Possiamo dire sommessamente al grande pubblico che ascolta questa trasmissione che io personalmente dei diritti acquisiti me ne sbatto. Bisogna fottersene di questa cosa, altrimenti è tutto un diritto acquisito. Non si cambia mai. Dunque anche quando riguarda voi stessi, però non solo quando riguarda i politici, anche quando riguarda voi stessi, eh. Cioè non solo quando riguarda i politici. Inseguito dalle Iene, l'avevamo fatto già noi col signor Craveri telefonicamente, eh. Sentite come risponde. È un fenomeno lei, con sette... È un treno, Cristo! Non c'è cazzo, io sto qui per fare complimenti, oh! Vabbè, allora vado a fare da un'altra parte. Lei non si è manco mai presentato una volta al Senato e guadagna un bel vitalizio da 2.381 euro al mese. Beato lei, complimenti. Ma lo sa che non è il primo che me lo dice. Devo prendere un treno, Cristo! Devo prendere un treno! Io volevo fargli i complimenti, il signor Roma, non è vero ovviamente che vuole fare i complimenti, gli vuole rompere i coglioni, il giustamente. Filippo Roma. Senti che cosa dice, quando sono stato al Senato, credo quel solo giorno, è costato fino adesso alla collettività più di 500.000 euro, però non è mai lavorato niente male. Ho lavorato. No, al Senato lei non c'è mai stato, giusto? Al Senato? Ci sono stato in biblioteca. Un grande, però. Sono stato in biblioteca. Però ragazzi, un grande, dai, su. Combatte, risponde. Ma che dai. Combatte? Togliere subito questi 2.381 euro. Subito togliere e farsi restituire ormai, mezzo milione. Dai, su, ma sei vergognoso. Sei vergognoso. Sei responsabile di portare questo paese verso la rovina e la catastrofe. Hai una responsabilità enorme nell'alimentare populismi, io. Sovranismi. Io perché sì, dico sì. Che questo che hai non ha fatto una... un giorno in Parlamento, certo, non bisogna dargli un euro. Ma e sono io il populista. Il problema dell'Italia. Dai, questo qui sicuramente non è questo. Ma non è questo. Parenzo, dai. Due punti. È giusto il vitalizio a Craveri. No, ma così. Parenzo, è giusto il vitalizio due a Craveri. Punti, Parenzo, due ce punti. L'ho e me lo tengo. Senti, ce l'ho e lo tengo. Ma che dici? Non ha mai pensato a rinunciare a sta pensioncina? No. La tiene stretta. Ce l'ho e ce la tengo, sì. Mamma mia ragazzi, che vergogna però, dai, su, è una vergogna. Vabbè, ma che dovrebbe fare? A un certo punto chiede pure all'inviato delle Iene un euro per il mendicante. Senti. Beh, stupendo. Senti. Cante che mi chiede sempre un euro e io li ho dimenticati a casa. No, con tutto il vitalizio che prende ha dimenticato pure i soldi a casa. Non le capita mai? Senta, le chiedo una cosa veramente indiscreta. Mi dica. Ho visto il mio mendicante, mi dà un euro? Ah, io ti do pure un euro. Questo in tasca il vitalizio da 20 anni, a carico nostro, io ti do pure l'euro. Ce l'ho due, vediamo le due. Facciamo felici. Mannaggia, quanto ci costano sti politici? Un altro fenomeno si chiama Pezzana, caro Parenzo. Pezzana, che lo conosco benissimo, Angelo un ex Pezzana, radicale, certo. Un esponente del movimento storico del movimento omosessuale. Un grande libraio torinese, peraltro. Sì, ha una libreria molto conosciuta a Torino. Signor Pezzana, il quale ha fatto una settimana. Fondatore del Fuori, no? Uno dei primi movimenti omosessuali. Movimenti omosessuali, allora, certo. Prende 2.000. No, una persona molto per bene, un intellettuale. Sì, sarà una persona per bene, sicuramente per bene. Una persona per bene, ma intanto incassa 2.262 euro netti per avere fatto una settimana in Parlamento. Erano le vecchie regole. E che dovrebbe incassa... fare? Ma gliele vuoi togliere? Sì, non ho capito. Che sì, deve fare, sì, poverino? Sì, mica sì, le ha fatte lui, sì, quelle regole. Sì, deve essere. Risposta, sì. No, vuoi togliere? Sì, io non voglio proprio niente a Pezzana. Sì, sì, non voglio sì, togliere niente, sì, voglio togliere a sì, te. Sì, a te voglio sì, togliere, sì, populista, sì, sovranista. Sì, sì, sì. Ma sì, cosa, sì, sì, ma... Che emozione, che gioia. Allora, io dico solo questo. Mi sono bastati 8 giorni di lavoro alla Camera per intascarsi una bella pensioncina del 2160 euro. Dica questo. Poi perché? Basta. Dato che riprendono me, sbattili fuori. Sbattili fuori, dice al segretario. Giusto, vado benissimo. Senti. Via. Quando arriva il bonifico della pensione, non so se è colpa. Lega quel documento. Verso quelli che magari una pensione ci hanno mai avuta. No, ma guarda che questa violenza. E se perché fanno la stessa cosa, avanti. Ma esca. Senta, ma che ne pensa? Alloggio privato, esca! Ricordiamo, prima di questo evento, l'anno scorso, giusto un anno fa. Scatole anche lui, scusa. Giusto un anno fa, la Zanzara era il 20 maggio. Senti Pezzana, senti. E non vuoi rinunciare a questi soldi? Ma nel modo più assoluto, è un diritto mio perché io ho osservato la legge, ma scherziamo. Ho osservato la legge, che è una legge fatta di, vuol dire, una legge che privilegia chi è stato... È una legge dello Stato italiano, tu interpretala come vuoi. Per una settimana alla Camera fino adesso ha incassato 650.000 euro, una roba incredibile se uno ci pensa, o no? Non ti senti un po', come dire... No, nel modo più assoluto, nel modo più assoluto, perché io mi sento una persona che si comporta decentemente, vabbè, quello, fa d'accordo, tutto quello che può per farlo e ha usufruito di una legge dello Stato. Salvatore da Lecce, vai. Pronto? Dimmi Salvatore, dimmi. Io volevo innanzitutto esprimere la mia solidarietà a Parenzo. Sì, esprimi tutta la solidarietà. Quella trasmissione è encomiabile. Sì, va bene. Volevo dire a lei, signor Cruciani, sì, che si erge a paladino di tutti questi leoni da tastiera. Io non mi ergo a paladino di nessuno. Do spazio a tutti, a lei come ad altre persone. Le dico quello che voglio dire. Così, sì, ma dico, infatti, lei è libero di parlare come anche quelli che lei considera i leoni da tastiera o eccetera. Sono quelle persone che poi tra 2 giorni, domenica mattina, sì, andranno in chiesa a dire che siamo tutti fratelli. Che ma siamo che ne tutti sa uguali. Lei? Ma che ne sa lei? Perché è così, no, quella doppia morale lì. Ma sono quelle stesse persone che difendono il crocifisso dalle scuole, sì, come se difendessero la propria famiglia. Vabbè, allora quindi sono quelle stesse persone. Bravo, e io voglio dire, bravissimo, quindi, che fanno un uso politico di Gesù. Bravo, bravo. Hanno sequestrato, ma che c'entra adesso? Dio. Ma, chi? Quelli Parenzo, che chiamano resisti, qua. Bravo. Resisti, sono qui, Parenzo, amico resisti mio. Non si molla di un centimetro, di un millimetro. Bravo, siamo bravo, qui Parenzo, a difendere la posizione, a raccontare quella parte di paese straordinario fatto di grandi bravo, imprenditori, bravo, di imprese, no, di partite IVA, strada, di uomini e donne Parenzo, che insieme rendono grande questo ma paese. Ma che c'entra? Uomini e donne che insieme rendono grande questo paese. La storia di Gino Strada. Bravo. Sì, che ha tutto il diritto di poter dire quello che ha ma detto. Ma chi ha detto che non ha il diritto di dirlo? Ma chi ha detto che non può dirlo? Ma chi sostiene che non può dirlo? Sono cose dette, ma posso dire, posso giudicare detto quello che dice Strada, oppure è il Signore, oppure è Dio sceso in terra, oppure è il sommo pontefice. Dico e per fortuna lo dirò fino a quando qualcuno mi dirà la possibilità di esprimere la mia opinione in libertà, che le parole dette da Gino Strada, sono banali, ma non banale, vogliono dire ma nulla. Assolutamente no. Vabbè, è la solita roba, bisogna di mettersi nelle condizioni di chi arriva qui, sovrapponete la vostra immagine, l'immagine dei vostri figli con quella dei migranti. Ma Gino che Strada vuol dire? Poi c'è da gestire qualcosa, un fenomeno. Che ne sa Gino Strada di come gestire il fenomeno dell'immigrazione? Ha fatto altro nella vita fino adesso. Metteva gli ospedali per curare quelli che gli sparavano le gambe. Dai, su, che ne sa di come gestire l'immigrazione? Di che parliamo? Dai, dimmi. Allora, di un barcone, quando parte un barcone dove ci sono 150 persone, di cui 149 forse sono immigrati che cercano una vita migliore, quindi immigrati economici. Non li possiamo prendere, perché altrimenti domanda, tutti hanno il diritto. No, non c'è tempo, non c'è tempo, dopo, non c'è tempo. Dai, zucchero, non si molla un cazzo, siamo tutti con te. Zucchero, la la la la la, zucchero, la la la la, zucchero, la la la la la, zucchero, la la la la, zucchero, la la la la la, zucchero, la la la la, zucchero, la la la la la, zucchero, la la la la. Dai, cazzo! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Scopri la finanza digitale. Rimini, IT Forum, 18 e 19 maggio. La Zanzara. Nostra gente, per la gente umile che lavora, che produce, che si ostina a mantenere Roma ladrona, che non fa un cazzo, che non fa un cazzo. La Lega aveva indicato per tempo in Viale Jenner un covo di cornuti islamici bastardi che vi veniva a buttare fuori a calci nel culo. Ciao la Lega! Ciao la Lega! Ciao la Lega! Ciao la Lega! Ciao la Lega! Pensate se i nostri nonni avessero raccontato che noi ci lasciamo togliere i canti natalizi da una banda di cornuti islamici di merda! Detto con il massimo rispetto per gli imam, per tutti questi, tutte queste palandrane del cazzo che circolano liberamente, che organizzano terrorismo, attività sovversive. Detto con il massimo rispetto per tutte queste palandrane del cazzo. Cazzo, questa è la Lega che vince Berlusca coi Zumi e Bossi, e la Lega sono i suoi guerrieri, gli facciamo un culo così, se siamo uniti, se siamo forti, piemontesi, lombardi, veneti. Padania libera, del resto non ce ne frega un cazzo. Ma Filippo da Grosseto. Padania libera. Libera. Subito, ieri. Libera Roma. Puzza. Roma puzza. Ciao la Padania. Solo, sempre solo la Padania. Se gli altri non ce ne frega un emerito cazzo. Padania libera. Libertà, libertà, libertà. Non riesco a fermarlo. Padania libera. Libertà, libertà, libertà. Viva la Padania, l'Italia non conta un cazzo. Piccolo mixino in onore, ecco, piccolo mixino in onore di Borghezione. A me dispiace. Segnalo che questo signore è stato condannato per razzismo da un tribunale. Ecco, ma adesso 50 voi, giudi- ecco, però giudicate voi se tutto questo florilegio, questa, anzi, scusatemi, questa antologia, diremmo, nel senso greco del termine, devo dire anzos, la verità. Logos, no? Quindi collezione di fiori vuol dire in greco, letteralmente antologia. Ecco, valutate voi se questa antologia borghezziana ha un vaghissimo sottotesto razzista. Sì, vaghissimo. Però devo dire la verità. C'è una grande ipocrisia. C'è una grande ipocrisia. Ne ha dette di tutti i colori ed è stato condannato per una minchiata. Dai, su. Cioè, rispetto a quelle che ha detto. Io ricordo che Borghezio. Intanto c'è un giudice. Che Borghezio, no? In un'intervista che io feci per il settimanale Panorama. Lo ricordiamo tutti, che è stata casa sua. A casa di Borghezio. Lo ricordiamo tutti. Per cui fu espulso dal gruppo, temporaneamente dal gruppo, insieme a Farage, là del Parlamento dopo Europeo. Intervista, dopo l'intervista, dopo l'intervista, fu espulso. Naturalmente. Tu fai danni ovunque. Ti rendi conto o no? No. Tu distruggi il paese. In questa intervista disse. No, in questa intervista. E non fu condannato da nessun giudice. Disse delle cose incredibili. Disse che il meticciato gli faceva schifo, che la razza nera era inferiore. Disse che andò in Congo e si trombava le congolesi. Disse delle cose tremende dal punto di vista proprio della razza. Non ci fu nessun giudice che disse qualcosa. Adesso è arrivato. Su, adesso anni arrivato. Fa. Ma... Sai, qualche giudice era impegnato, tipo Zuccaro, si occupava di altro, no? Si occupava di altro. C'è Salvatore da Lecce che vuole dire ancora qualcosa. Dai, Salvatore, dimmi, avanti. Comunque, ragazzi, qualcuno propone la colletta per Borghezione, eh? Sì, adesso non è che possiamo fare collette per tutti, però pensiamoci alla colletta per Borghezione, Salvatore, vai. Per mandarlo in Congo, anzi no. Allora, dicevo, no, io volevo solo chiederle se su un barcone di 150 persone sono 149 che vengono qui a cercare lavoro, a cercare fortuna, e uno solo che è un profugo che scappa dalla guerra. Bravo. Che facciamo? Li buttiamo tutti a mare? Anche amico mio, ma a me non è nessuno. Il paese reale è Stefano da Roma. Siamo in tanti, Salvatore da Lecce, non è Stefano. Scusami, Salvatore da Lecce. L'ottimo Salvatore da Lecce. Il paese reale è rappresentato da lui. Grazie per aver chiamato. Un paese buono, un paese posizione. Che dobbiamo raccontare, un paese fatto da uomini e da donne, imprenditori per bene, imprenditori che scelgono di rimanere qui, di investire in questo paese. Attaccato e poi ci sono quelli che salvano, quelli che pensano che il bello del paese, bella Italia, grazie, un'Italia ricca da nord a sud, di opere d'arte, cultura, è fatto da quelle amore. Persone. che lavorano vabbè, giorni, avete finito sta Filippica pro immigrati, avete finito sta Filippica pro arrivo di chiunque, pro arrivo di chiunque, pro arrivo di chiunque, ogni stato si deve dare delle regole, da noi non esistono, da noi non esistono, bisogna riportare questo barcone indietro, bisogna riportare questo, se dovesse arrivare fino a qua, e secondo me non dovrebbero arrivare, come succede adesso in Sicilia per il G7, si può tranquillamente non far arrivare i barconi. Ma quelli della Sicilia che non arrivano in Sicilia non è che li stanno Stefano da Roma, ciao sabato, Stefano da Roma, ma chi ha detto che bisogna affondarli? Stefano da Roma, dai. Oh, ciao. Dimmi. Bene, sì. Vai. Allora, io non sto un po' a livello, perché qui... Sì, alza il livello tu, dai, professore, alza il livello, dai. No, non sono professore, sono sì, ignorante. Sì, e allora che vuoi alzare il livello, dai? Qui il problema è che il fratello di Ismaele lo trattate troppo male. Chi è il fratello di Ismaele? Ah, Parenzo. È una pseudo citazione biblica intelligente. Io volevo dire, ricordiamoci, invece di parlare sempre male di questi poveri immigrati, che siamo tutti figli di Troia. Tu che sei specialmente laziale, pure tifoso dalla Lazio. Vabbè, ciao, Luca da Monza, dai, Luca da Monza, ciao Stefano, Luca da Monza, vai. Sì, ciao, dimmi. Alla fine questi immigrati non è che vengono tutti qua per integrarsi, la maggior parte... Diciamo la verità, viene qua per dettare le sue leggi, giusto? Sì. Perché... Ma giusto un corno? Non lo so, dettare le sue leggi. Corno, Parenzo, dai, addirittura dettare le leggi, non mi pare. Sì, dettare perché le leggi. Vogliono essere liberi di girare col pugnale megagalattico. Ma chi te l'ha detto? Ma chi può... mai Sikh? Persone parlo... tra le più buone del mondo, non io ho mai visto un Sikh. Questo ti coinvolge quasi direttamente, visto che dici di essere ebreo. Io parlo dici. No, ma aspetta, fammi finire. Sì, aspetta. Io parlo da un ragazzo che è cresciuto nei Testimoni di Geova, primo. Ma che c'entra? Per questo scusa? Ti dico, no, perché il fascismo, come dici tu, ha colpito anche, diciamo così, il mio credo, va. Certo. Cosa certo. Vuol dire? Spiegami, non ho capito niente. Tu... Che vuol dire il fascismo ha colpito il tuo credo? Che vuol dire? No, perché io sei confuso. No. Tu ti sei attaccato alla bottiglia, fidati. Confuso. Hai la voce di uno che si è attaccato alla bottiglia. Ma quale bottiglia che sono a attaccata la bottiglia? Ma non sembra, oltre gli ebrei c'erano anche i testimoni di Geova. Vero, questo è verissimo. E che c'entra questo? E allora? Ma partiamo dal presupposto che hai fumato, primo, che hai fatto? Primo, hai fumato? Ma che fumate? Fumato, mi piacerebbe, ma non posso. Io voglio capire di cosa Mussolini vuoi di cosa vuoi parlare. Lascia perdere i governi Mussolini, di cosa vuoi parlare, amico mio? Di questo fatto che quale, comunque quale, sì, soggetto, sì, verbo, complemento, oggetto. Non vengono qua per rispettare le nostre leggi. Quando noi andiamo al loro paese, dobbiamo stare con due piedi in una scarpa, ragazzi. Cioè, tu non vuoi gli immigrati qui, non vuoi gli immigrati stati... qui. No, voglio immigrati perché prima di tutto mia moglie è ucraina, quindi ho sposato un'immigrata. Ma voglio immigrati che si sappiano integrare. E sta gente non si vuole integrare. Ivan da Palermo, ciao, Ivan da Palermo, vai. Sì, ciao. Vai. Dimmi. Io volevo dire a Parenzo che è un enorme idiota, secondo me. Buonasera, benvenuto. Benvenuto, grazie. Poco fa io ho sentito dire ad Arti del populista, Giuseppe, perché populista sovranista, sì. Perché ti lamentavi del problema che il senatore non era mai stato in Parlamento, al Senato. Ma mi pare una cosa normale, uno che ha fatto un giorno in Parlamento e prende 2381 euro netti. Ma è uno scandalo, va tolto, ma non c'entra niente, sono le cose piccole e importanti. Non c'è nessun diritto, è una vergogna e basta. Il diritto me ne sbatti i coglioni. Sei fatto un giorno in Parlamento e pigli 2381 euro netti, devi fare un decreto domani mattina per togliergli il vitalizio. Va bene, una volta che abbiamo fatto sto decreto abbiamo risolto ragione. I problemi dell'Italia, ma va bene, non vuol facciamo dire questo decreto, ma certo che non risolvi, ma l'ammontare di tutti quelli che prendono questo vitalizio ormai pensato così nella prima repubblica sono punto, pochissimi a Ivan punto, da Palermo. Perché tutti la pensano come te, Palermo, ma quale perché, questo punto siamo sì, a questo perché, punto perché, questo... perché è assurdo che tu venga a dire non è questo il problema dell'Italia. Ma guarda che questo fa tantissimo. Ma tu lo sai che ma c'è gente che cerca le cazzoletti per mangiare? Tu cosa ma ne certo, sai ma che cose? C'entra con quello del vitalizio? Ma cosa c'entra? Sono soldi dello Stato buttati. Lasciamo perdere i cazzonetti. Sono soldi buttati dello Stato. Sì, d'accordo, ma queste persone che gente hanno... Gente che ha preso fino adesso 500.000, 600.000 euro per avere fatto un giorno in Parlamento è una vergogna. Punto sono e basta. Soldi, e domani mattina dovrebbero intervenire per togliere questi soldi. Ma siamo d'accordo, ma una volta che l'hanno fatto... Ma no, dico che non è la questione principale oggi, no, quella di un signore. Hai detto che hanno diritto ad averlo perché hanno versato dei ma soldi. Ma quelli hanno versato pochi soldi in base a quelle vecchie leggi che avevano fatto. Qualcuno ha versato, fermi ovviamente. Tu, in base tu. A quelle vecchie leggi, quello prende ma quel vitalizio. Ma che vuol dire? Beh, appunto, vecchie leggi, cancelliamole. Fermi tutti. Parenzo, quando vuoi. La Zanzara. Esiste anche un'altra interpretazione della parola schienare, cioè quando la persona, maschio o femmina che sia, si mette nella posizione di pi greco mezzi, cioè 180 gradi, comunemente detta a pecora. Parenzo merda, pagato da Soros, pagato da Soros, pagato da Soros. Allora, Parenzo, piccola spiegazione per chi è feticista dei piedi. Io non so se tu sei feticista dei piedi, se tu sei appassionato. Dottore è andato con presidente Nelo Obama a Bolgo Finocchietto Toscana sul seggiale Chianti classico, no palla feticismo perché lì è clucianiane. Dottore con presidente Nelo, quello tutto Nelo Obama si sì, chiama. Sì, ho capito, a Bolgo Finocchietto, che non è brutta parola, si chiama davvero Bolgo Finocchietto e non è double meanings. Allora, tanto qua dietro alla regia di Roma sì, vedo delle persone con dei capelli. Beh, stupendo, so già cosa vedo ti attende. Vedo delle persone che hanno dei capelli piuttosto voluminosi, diciamo. Allora, c'è una grande sorpresa dopo le 20, ragazzi, intorno alle 20 e 10 circa. Intorno alle 20 e 10. No, allora, la spiegazione del feticismo dei piedi è molto semplice. Da un punto di vista biologico, questa è la più soddisfacente che ho trovato. Sì. Da un punto di vista biologico, l'odore animalesco dei piedi riporta uno stato di natura selvatico e quindi ipersessuale. Un po' troppo complessa in realtà. E poi non bisogna dimenticare che questa parte del corpo è sporca e quindi eccitante. Perché nella nostra testa spesso c'è l'associazione di questi due concetti, sporco ed eccitante. Ma c'è anche un altro fattore molto importante. I piedi e le mani sono tra le parti meno suscettibili di trucco, parrucco e bisturi d'ingiovanente. Questa è buona, eh? Spesso basta guardare i piedi di un'attrice per capire la sua età biologica. E se è vero come è vero che il maschio è programmato prima di tutto per cercare segnali veri o presunti di giovinezza, ecco spiegato perché i piedi piacciono tanto. Insomma, sono degli indicatori oggettivi e difficilmente falsificabili dell'età di una donna. Mi piace più la prima di spiegazione. Da un punto di vista biologico, l'odore animalesco dei piedi riporta uno stato di natura selvatico. Ottima questa, ottima. Giovanni dalla provincia di Forlì. Io però chiamerei, prima di Giovanni dalla provincia di Forlì, chiamerei quel signore che sta organizzando, si chiama credo Fiato, come il fiato. Mm-hmm. Lorenzo Fiato, uno di questi, di questa associazione che vuole organizzare dei blocchi navali. Ma per blocchi navali ma per non far arrivare questura. Per non far arrivare i migranti, blocchi navali, blocchi navali, bei blocchi navali, eh. Pronto? Sì, Lorenzo? Chi è? Qui Radio 24, salve. Ah, sì, salve. Senti, ma ci puoi spiegare che cos'è che state preparando? Il blocco navale, praticamente? Che porcheria. Allora, noi stiamo preparando una missione che si chiama Defend Europe. Sì. Che ha il sito e questa raccolta fondi con cui in pochi giorni abbiamo messo su più di 20.000 euro. Addirittura? Sì, è una bella cifra. Ma cosa volete fare con questi soldi, praticamente? Allora, dobbiamo comprare delle navi o noleggiarle, dobbiamo prendere del materiale per pubblicizzare tutto, sì. Pagare agli attivisti il viaggio e tutto il resto. E con le navi che ci fate? Con le navi le useremo per tracciare il percorso delle ONG, seguirle, darle fastidio, rallentarle, bloccarle. Noi siamo stati ispirati... Ma è illegale questo? Sì, può essere, sì, è illegale. No, senza può essere, io mi... No, è una domanda che... È una aspetta. Notizia di reato, io aspetto pure, per carità. Cioè, aspetto. Vuol dire, quando è che è un reato, secondo te? Può essere un reato dal momento in cui noi andiamo a rallentarle, ci poniamo davanti e tutto il resto. Però questo è il rischio che noi vogliamo correre. Siamo stati ispirati anche dalle azioni fatte da Greenpeace, che sono analoghe, e noi vorremmo replicarle praticamente in questo contesto. Cioè, Greenpeace praticamente quando si opponeva, che ne so, al nucleare, cose di questo tipo? Sì, cioè il format noi lo vorremmo replicare in questo genere di cose. Tutto questo per impedire ai migranti di arrivare? Sì, Ecco, l'ideale è quello. No, l'idea è quella che a questo punto è una notizia di reato e mi auguro che la magistratura intervenga per fermare questa follia di questo ma gruppo perché? Di fanatici. Ma quale follia? Non ho capito. Ma no, non c'è perché, non c'è neanche da chiedersi perché quello ride. Non c'è neanche da chiedersi né perché né da ridere, perché è una cosa molto grave quella. Ma perché è grave? Perché salvare le vite umane è un obbligo e non saranno quattro pagliacci. Come rispondi? Aspetta, quattro, aspetta. Non c'è come... da rispondere, aspetta. C'è da arrestarlo. Non c'è da dire rispondi. Lorenzo, rispondi per favore. Non c'è, c'è da chiamare la magistratura. Ma non si calmi niente. Calma, calma, fai rispondere, fai rispondere. Ma rispondere no, chiama la polizia. Allora, io non c'è rispondere. Sì, sì. Tutto il fenomeno legato all'immigrazione massiva e tutto questo genere di cose sia un grosso business con del lucro dietro. Voi non volete la società multirazziale, non volete che gli immigrati arrivino in Italia, non ho capito. Sì, il nostro problema è il multiculturalismo, perché secondo noi il multiculturalismo non funziona. Guardi lei stesso nei paesi dove il multiculturalismo... Cioè tu vuoi praticamente... Tu vuoi che ritornino indietro tutti gli immigrati, perché così c'è scritto nel vostro programma. C'è la remigrazione, c'è il ritorno indietro di tutti. Questo in sostanza vuol dire. Cioè non ci vuole, non ci deve essere più un nero in Italia? Si tratta di impedire un fenomeno di immigrazione che non si è mai visto in tutto il corso della storia. Cioè a lei non piace la società mista? A me, come il mio movimento, non piace il fenomeno del multiculturalismo. Capito, Parenzo? Sì. Ma questo non me frega niente di cosa gli piace a lui o non gli piace. Poi non piacegli il multiculturalismo, sono fattacci suoi. Nel momento in cui però organizza addirittura il sabotaggio di quelli che vanno a salvare vite umane, questo è una notizia di reato e mi auguro che questo signore parli qui per l'ultima volta. Ma vanno a dare fastidio lì, vanno a dare fastidio. Che deve essere arrestato per questo, perché deve va lì con le navi? Beh, assolutamente, è un reato. Naturalmente, è un reato. Lei ha paura? Paura di commettere reati? No, noi ci sentiamo sicuri di quello che faremo. I soldi chi ve l'ha dati? I soldi sono tutti di piccole donazioni private. Piccole private, piccole, ma qualche nome c'è di qualcuno che va vogliamo dati i nomi di questi no, qui. No, i privati vanno tenuti anomi. Le ONG volete i nomi, allora giusto. Complici di un reato sono quelli. Ma che complici di un reato? Senti, qua il magistrato sono io, quindi calma adesso. Allora, siamo venuti a conoscenza di un reato. Cioè ma di non un c'è nessun reato per adesso. Appartenente a una sedicente associazione che non so neanche come si chiami. Generazione nulla. Identitaria. Generazione imbecilli. Benissimo. Generazione identità. Beh, ma non movimento proprio non esiste. Generazione sì, sì, esiste. Vabbè. Generazione di scappati di casa. Allora, degli scappati di casa che non hanno né arte né parte. Vogliono bloccare delle navi che arrivano. Benissimo, ottima sintesi. Vogliono bloccare delle navi. Beh, questo è un reato. Ma non è un reato. Mi dispiace per te. Ti chiedo di fornirmi nome, cognome, numero di telefono. Fino a che punto volete arrivare nel bloccare le navi? Cioè mettervi davanti. Cosa volete fare concretamente? Noi vogliamo cercare di rallentarle, seguirle. Noi vogliamo anche capire cosa fanno quando loro spengono il transponder. Lei è un bloccatore di felicità, cioè lei è una persona che blocca il desiderio di altre persone meno fortunate di lei di volere, di anelare la libertà. Caro Zucchero, anziché occuparti di fantasmatiche immaginarie ONG, ti diamo una notizia. C'è un signore che con altro gruppo di ragazzotti vuole andare a commettere un reato. Come rispondi? Hai la notizia. Fiato. Sequestra l'audio. Ti abbiamo fornito una Fiato. Prova. Hai un filone d'inchiesta. Io credo che quello che stiamo facendo noi è lecito anche dal momento in cui le ONG trafficano in maniera illecita e illegale. Cioè l'ONG traffica in maniera illecita? Come fai a saperlo tu che traffica in maniera illecita? Lo presumi? E certo, trasportano immigrati clandestini, ma quello è favoreggiamento di reato. Vabbè, questa è un'ipotesi naturalmente, non è che sia una certezza. Arrivederci, ci vediamo fortuna. In galera, verrò a trovarla in galera e quando lei sarà in galera lotterò affinché lei faccia lavori socialmente utili, cioè vada a pulire il sedere ai migranti. Va bene, l'aspetterò allora. Bene, ecco, ottimo, bravo. Ciao. Parenzo. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? E che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. E che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. La zanzara. Culo niente. Ma come culo niente? Culo niente. Siamo al top. Siamo al top, Cruciani, siamo al top. Ah, Oh raga, ma chiaro, ma certo che ci sono i massaggi cinesi e sono fantastici. Ma a Parenzo, cioè, ma dove cazzo vivi, Parenzo? Ma è normale che i giovani, la gente ci va, perché costa 50 euro, fanno un bel massaggio e poi eventualmente un bel raspone. E così ti rilassi e non devi sentire lo scassamento di coglioni della moglie, della fidanzata, non devi rendere conto al cazzo di nessuno. Costa meno che portare a cena fuori una zoccoletta qualsiasi, no? All'amba il massaggio e via. Io e mia moglie cambiamo sempre solo la testina dello spazzolino elettrico e adesso capisco perché non sa solo di dentifricio. Grande esplosione di vendite di spazzolini elettrici dopo sì, la prestazione vabbè. Qui della signora Nike Rivelli. Adesso avviso ai naviganti e agli ascoltatori della Zanzara che lo studio di Roma è stato militarmente occupato da alcuni signori che presenteremo tra pochissimo. Hanno messo delle scarpe addirittura sulla nostra console sì. E hanno portato una serie di oggetti. Praticamente hanno invaso totalmente lo studio. Questo beh, era il un sogno messaggio. Di capanna questo qua. Sì, il sogno di capanna. Naturalmente. Ma sono proletari, sono gente proletaria. Sì, gente... ha un aspetto hippie anni 70, capelli lunghi. Tatuaggi. Beh, dunque perfetto per capanna. Sì, certo, bellissimi. Sono venuti qui armati soltanto, non di mazzi né di bastoni, ma di buona musica. Tra poco vi faremo ascoltare qualcosa. Possiamo provare i microfoni? Vai, mica, vai, che dici adesso? Allora, Giovanni intanto dalla provincia di Forlì, vai, Giovanni dalla provincia di Forlì. Pronto Giuseppe, ciao. Dimmi, fratello. Ascolta, carissimo, io ho sentito questo su Borghezio che mi sembra che gli hanno condannato, gli hanno fatto una multa, non ho capito bene. Beh, l'hanno condannato per diffamazione aggravata dall'odio razziale a 50.000 euro per alcune frasi dette qui alla Zanzara nei confronti della signora Chieng, ex ministro della Repubblica Italiana, bene, sì. I tempi la signora d'oro. Di colore è congolese, certo. Italiana, che ha fatto il ministro, è stata secondo i giudici offesa dal signor Borghezio. A me francamente la condanna a 50.000 euro pare eccessiva, ecco, 50.000 euro. Comunque vabbè, Giovanni, a me sembra molto eccessiva. Vabbè, allora che vuoi dire su questo? Abbiamo già parlato ieri. Io direi che 50.000 euro possiamo fare 100 euro per uno e non ci sono problemi. Io penso che per pagare una multa di 50.000 euro a Borghezio ci mettiamo un giorno a raccoglierli. Ma non lo so, amico mio, se tu vuoi fare la colletta pro Borghezio puoi anche farlo. Io non penso che uno non debba vendere la casa, soprattutto Borghezio. Non lo so, ma adesso magari... Quelle battaglie che ha sempre fatto. Ma non lo so, Giovanni, che cosa vuoi fare? Vuoi mettere 100 euro per Borghezio, iniziare a fare una colletta? Io metto prima i 100 euro. Vabbè, adesso vediamo, teniamo in considerazione la tua proposta. Parenzo, hai sentito Giovanni? Vuole mettere 100 euro per Borghezio? Ho sentito che Gentaglia, date questi soldi, questi 100 euro, vadano alle organizzazioni non governative, sì, quelle pure, che salvano pure, i profughi, i cercatori di felicità, a chi incita al razzismo. Colletta alla faccia di Parenzo. Ma alla faccia sua, che sappiamo tutti com'è la sua. E non solo, avanti con l'ultimo ascoltatore che... per avanti? I blocchi navali, avanti tutta. Va bene, Romano da Modena, vai Romano. Romano, vai. Ciao Beppe. Dimmi. Ciao, io volevo parlare anch'io di quello che riguarda la punizione, la condanna a Borghezio per aver apostrofato l'onorevole Chienghe. Diciamo che l'errore è stato fondamentale. Perché non avrebbe mai dovuto dire orango. Insomma, c'è un errore di genere grammaticale. Avrebbe dovuto dire oranga. Vabbè, dai, questa è una cazzata, Romano. Dai, su, è una minchiata. Come sostiene l'onorevole Boldrini. Vabbè, allora? Basta. Alberto, una cazzata. Alberto da Cracovia, vai. Dalla Polonia, vai, Alberto. Ciao Crucian, ciao Parenzo. Dimmi. Allora, vabbè. Siamo in un nightclub in diretta da Cracovia. Ascolta, noi ci chiedevamo, ma lo schienare di Parenzo è schienare nel senso che l'uomo accompagna la donna con la mano dietro la schiena verso il letto o la mette a 90 e poi, diciamo, entra? Dottore, dottore, è andato dal signor Barack Obama a Bolgo. No. Sì, no, devi dare la spiegazione su schienare. Aperitivo, non parla. No, non ma schienare parla. È il modo di dire mettere, no. mettere di schiena, cioè mettere no, sul letto una donna. Ma non ho usato questo termine. E scoparla in maniera forte, in maniera anche violenta. Schienare è una cosa violenta quella che hai detto, Davide. Una cosa violenta. Però Alberto, dove eri? Dove sei? Scusa, sì. Non ho capito, a Cracovia, dove? Siamo in un nightclub a Cracovia, per night un club, so celibato. Ma sono le 8 di sera, sì. Nightclub di che? Alle 8 di sera a Cracovia? Ma qui, qui ma già casa, lavorano, stanno, ma sarà a casa con la madre questo qua, figurati. Sarà a casa no, con la no, madre. Siamo a Cracovia. Adesso, adesso intervisto una delle ragazze, ma se è possibile. Ma parla italiano? Parla italiano okay. Questa ragazza? Non speak Italian? No. Non speak Italian, nessuno speak Italian. Do you swear? Ah, sì, sberla, vabbè, Gabriele dalla provincia di Modena. Passiamo, sberla, passiamo oltre la Polonia. Gabriele, provincia di Modena, vai. Gabriele? Sì, pronto. Dimmi, dimmi. No, niente, guarda, io ormai sono fuori tema perché ho sentito. Io ti ascolto quando posso. Perché ma quale fuori tema? Non esiste tema qui. Non esiste tema. Dimmi, che c'è? Che no, c'è? No, prima mi ha fatto andare in bestia il discorso di Parenzo sul discorso dei diritti acquisiti. Bravo, a questi bravo. Questi fenomeni che fanno una mezza giornata in Senato e si prendono i 2.000 euro. Allora io penso. Così ho detto una stronzata forse. Io mi sono fatto 40 anni di contributi. Sì. E fino a qualche anno fa sì, sì. era un mio diritto acquisito dopo 40 anni andare in pensione. Sì, sì, sì. Adesso 40 anni non mi bastano più. Sì. Perché cazzo i miei diritti acquisiti non valgono come i diritti acquisiti? Hai ragione di tu, al di là che si prendono 2.000 rotti euro di perché hanno fatto una mezza giornata in Senato. Hai ragione tu. Allora, porco zio, quello che voglio ecco, dire bravo, è ma limitati, limitati. Vogliamo prendere no, ho detto zio, poi ho detto zio, sì, porco sì, zio. Sì. Perché è ancora consentito porco zio, sì. Lo zio è consentito. Per qual motivo? Cioè, quando senti, quando senti, sì, non ma valgono niente. Sì, ho capito, Gabriele. E questi signori invece hanno questi quando senti, quando senti questi qua che dicono è un nostro diritto, questi che hanno fatto mezza giornata in Parlamento, una sì. settimana in Parlamento, quando li sì. senti parlare, quando li vedi in televisione, quando senti le voci qui alla Zanzara, cosa provi no. nei confronti di questi signori? Spiegamelo. Guarda, provo disgusto e provo perché dico, ma dove sono gli almiranti? Vabbè, che cazzo c'entra l'almirante adesso? Andreotti, dove sono quella gente? Andreotti pure per... li abbiamo pagati, sì, li abbiamo pagati per una vita, che è vero. Ma sono stati lì una vita. Ti hanno portato fuori dalla guerra, non come questi finocchi che si fanno vedere un giorno. Ma che c'entra finocchi? Scusa, Parenzo, intervieni. Parenzo! Ma oggi sono intervieni. Parenzo, vai a chiamare il dottore Parenzo, chiama no, il dottore. No, non chiama Parenzo. Nessun dottore, chiamo semplicemente la questura sì. più vicina, no il dottore, ma che cosa chiamo la questura ma più cosa vicina. Ma perché la questura che ha fatto? La devono perché ma lo devono. Ma tu sei questa questione della questura, sì, Parenzo. Sì, ma lei o va rinchiuso in una struttura sanitaria adeguata oppure in galera. Parenzo, devi adoperare la testa ogni tanto. Ma ha ragione Gabriele. Perché tu ti tiri fuori sta cazzo di questura tutte le volte, tanto la questura che fai cosa fa Poretti? Ma ne hanno pieni i coglioni di tutti quanti, anche la questura ne ha pieni le balle. Gabriele, non è di problema. Ti saluto, Parenzo, fermi cioè, tutti, tra pochi minuti, tra pochi minuti, grandi ospiti sì, qui, sapevo, fermo lì, ciao, restate ciao, qui, ciao. Pubblicità, restate sì, qui, ciao, fra poco ciao. il top assoluto, fermi tutti. La Zanzara. Allora ragazzi, beh caro Parenzo, devo dirti la verità, ognuno di noi ha i suoi miti nella vita, no? Certo. Cioè io sono un po' cresciuto con un mito di una canzone, con il mito di un gruppo, c'erano le mie cugine, cugine che sentivano queste, queste voci, melodie. Queste melodie con queste voci quasi frocesche direi, no? Beh, insomma, con queste voci diciamo, quasi, sì. Sì, però in realtà... È febiche si potrebbe dire sì, forse, no? I cugini di campagna, eccoci qui! A Roma! Allora, li presento. Ivano Michetti, ciao Ivano! Ivano, dove cazzo stai? Eccoci Ivano. Qui. Eccolo Silvano. Qui. Come andiamo? Silvano? Silvano, Michele. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Tiziano. Capelli, chi c'è? Nato pronto, nato pronto, sì, nato pronto. Chi c'è poi? Pure Tiziano c'è? Sì, nato sì. pronto, nato pronto. Ma nato. Il ragazzo biondo, quello che sembra Rod Stewart. Eccomi. Ma è vero che facevi il macellaio? Verissimo, super vero. Cioè, infatti gli ho portato un pollo qua. Come io? Come cioè, portato sì, un guarda, pollo? Lo possiamo inquadrare. Gli ho portato un pollo che ho trovato in un supermercato. È un pollo halal, peraltro. Cioè, non ho capito. Macellato secondo il rito islamico. Guarda, ho anche il coltello. Non so se si riesce a vedere dalla camera. Dalla webcam. Senti, scusa Daniel, ma veramente prima di cantare facevi macellaro? Io glielo giustamente do. Sì, io il macellaio spalla. Ovviamente mica c'ho i sordi come a te, io devo campare prima, devo tirare su i sordi per allora, campare la famiglia. Quel pollo in diretta. Scusami Daniel, aspetta, prima di squartare sì. questo pollo per vedere se ancora casomai se ancora è vivo. Siccome fra poco farai sicuramente resterai disoccupato perché sti disgraziati, si disgraziati te lasceranno per strada perché cambiano prima voce come fossero e le femmine. E poi vestiti. Esatto, come fossero i vestiti. Allora io ti consiglio di riprendere un po' la mano per quello che riguarda. Ma tu che facevi esattamente? Che tagliavi? Tutto. Guarda, io selezionavo i polli, tutto sì. ciò che era carne bianca. Beh, amico, sarai molto, amico, quindi... molto amico dei vegani, per esempio, no? Molto sì, amico... infatti c'è uno qui vicino a me che è un grandissimo vegano. Chi è vegano? Chi è vegano? Siamo in sintonia. Silvano. Silvano, che sei vegano sul serio? Sì, sì, vegano, cioè esattamente macrobiotico. Mamma, macrobiotico è una cosa, vegano è un'altra. Cioè non sì, mangi manco il pesce? Il pesce è raramente se è biologico. Se è biologico, ma non significa vabbè, un cazzo, questo... biologico è una sola. Lo so, tu dici è una così. Sola, amico mio. Io sono il fratello di Silvano. Ma te ci credi? Ma te ci credi a sta storia del vegano, insomma. Vai, no, vai, no. Chi è che parla? Fermi, facciamo no, ordine. No, sono Tiziano, no, perché dipende. Quando andiamo fuori Roma in tournée, il primo a mangiarsi braciole, salsicce e cose chi varie, quindi... Chi è? Tiziano, ciao, eccolo. Allora, Tiziano sta dicendo che il primo a mangiare braciole è il presunto macrobiotico, il presunto vegano. Capito, sarebbe Silvano, Silvano. Sarebbe Silvano. Speriamo allora. Che la moglie non ci senta, guarda, perché se no. Allora, Daniel, tu che sembri Rod Stewart con qua. Daniel Colangeli, questo Daniel ragazzo. Con quanti anni hai? Quanti anni hai, Daniel? 26. Ma 26, già ti sei rovinato con questi a 26 tutta anni. Tutta sta camicia aperta, tutti questi tatuaggi. Onorato di essere rovinato. Beh, alla grande, senti, allora taglia sto pollo, vediamo un po' se sei tagliamo in grado. Pollo. Allora, gli ho dato questo pollo intero, halal, sì. quindi halal, anche halal, macellato halal. Secondo il termine... La tradizione islamica, apri sto pollo e squartalo. Proprio allora, che vi serve? Lo sta tagliando, lo sta prendendo. Ci serve tutto. Ci serve tutto. Ho capito, ho selezionato. C'è la petto, diretta Facebook. Devo fare la diretta Facebook. Aspetta, che faccio la diretta Facebook. Allora, vai, vai, vai. Allora, taglia bene. Io voglio le cosce e sì. il petto. Cosce e il petto. Certo, sto coltello è proprio, Allora, vai. Aspetta, che fa la diretta Facebook. No, qua. Sì, no. Sì, mamma mia, che schifo sul banco di. Come no, si fa la diretta Facebook? Vai, vai, vai, vai, parti, parti. Vai, partivo. Vai. Fammi sentire i colpi, però. Fammi sentire i colpi. Fammi sentire i colpi di questo pollo. Mamma mia, com'è veloce, però. Eccolo, è velocissimo, lo sta proprio squartando. Ma sei proprio forte. Guarda che roba, è una velocità pazzesca. Se canta come taglia, ragazzi, siamo a posto qua. Ma già fatto? Già no, fatto. Lo sta, no, è grosso sto pollo, è un pollo islamico, amico mio. Però lo sta. Vai, guarda, vai. Poi pubblico. Ma sai, video. Anche il coltello non è tanto. È un so. Coltello che ho trovato. Ma questa è Confindustria, mica la macelleria, amico mio. Ma scusa, ma come pensi di essere? Hai capito, sì. Guarda com'è veloce, che manine di fata che ha. Come combatte con il pollo. Taglia qui, ovviamente, si taglia. Dicono stai tagliando, guarda, veloce. Adesso tagliamo questa sorta senti, di... Lo senti il rumore? Ecco fatto. Senti le ossa in spaccamo tutto. Guarda che roba. Ecco, siamo arrivati alla fine. Bisogna togliere, ecco fatto. Ecco, ha fatto il petto questo adesso, petto. Gli ha tolto il petto. Sì. Voleva giustamente. Le coscette, per cortesia. Eccole, che però le coscette si dividono in sovraccoscia e coscia. Dovete sapere. Se tu hai la sovraccoscia, un conto. No, ma tu togli mi le scarpe dall'inquadratura. Fammi bene, come, se, bene, devi, tolgo, come okay. se dovessi fare la cosa, come se dovessi fare poi il coso, no? Come se dovessi metterlo in una teglia e poi fare un bel pollo a forno. Adesso sta tagliando l'altra cosa. Ma le mani tutte coscio. Sporche, mamma che schifo, però sul tavolo della radio. Allora, ragazzi, intanto questa è una bellissima coscia. Mentre prosegue il tagliamento del pollo, andiamo a sentire un attimo questo cazzo che c'è, la pubblicità, quello che è, eccetera. Poi torniamo con Anima Mia, ragazzi. Torniamo con Anima Mia. Ma hanno fatto una porcheria qui. Anima Mia, canzone dedicata a tutti coloro che si amano, tutti coloro che sono in macchina, che stanno andando verso il mare, verso la montagna, tutti coloro che si vogliono bene, tutti coloro che sono il paese normale, l'Italia migliore. Il titolo lo facciamo e poi parte la musica. Il titolo vai. Com'è? Sempre Anima Mia, com'è? Anima mia, anima mia, anima mia. spettacolo. Amici miei carissimi, siete in ascolto. La pubblicità. Pubblicità. La zanzara. Ivano and Company, partiamo, anima mia, i cugini di campagna, la zanzara, vai. Live. Eccola là, vai. Vai, base, vai, vai, vai. Base. Anima mia, anima mia, anima mia. Oh. Qual è la base? Andiamo? Ah no, volevano la musica. Ma no, quale musica? Vai, vai, vai. Poi rifacciamola. Eccolo. L'abbiamo chiamato, l'abbiamo chiamato. Meravigliosa. Alzate un po', grazie. Vai. Alzate il ritorno forte. Alzare il ritorno. Suonava, questa suonava. Ma questa è la ritornello. A cappella ne va a base. Partiamo dal fare il bel ritornello, vai. Allora subito andiamo al ritornello. Vai, vai, vai, vai. Anima mia, torna a casa tua, mi aspetterò dovessi odiare queste mura. Lasciato tu. Bravi, eccoci qua. Allora Ivano, Ivano, mi dici questa storia di Lady Gaga, che cazzo è? Cioè non ho capito. Voi dite che Lady Gaga è un altro personaggio che si chiama Tina Cipollari, ma le due persone sono ovviamente a distanze siderali. Certo, a distanze siderali. Vi ha copiato i vestiti? Sì, allora, hanno portato foto, diciamo, documenti. Che sono arrivati centinaia, migliaia di SMS nei nostri Facebook, nei nostri network, dove dicevano appunto: dovete farla finita di copiare Lady Gaga, anche la Cipollari. Ma dai, va bene, comunque noi abbiamo risposto un pochino a tutti questi ragazzi. Ma non siete, voi che non siete voi che avete copiato, sono loro che hanno preso spunto, perché il vestito è uguale. È allora io non voglio, io guarda, il vestito abbiamo le prove. Guarda, porca vacca. No, vabbè, calma adesso, ma abbiamo le prove. Abbiamo hanno portato ritagli di giornale degli anni 70, stiamo parlando del 1970, non 800. No, 1870, abbiamo tutte le cose. Se arriva una Lady Gaga vestita così, vabbè, se voi non la vedete la radio, questa maestra. Sì, vabbè, ma se c'è capito, cazzo, capito. È la radio. Ma io qua spero, perché vedo una specie di, ma di una, robot, è una dico, webcam, un occhio, vabbè, è una web che non. Allora? Vabbè, no, lei ha portato così delle foto, no? Poi, degli vostri anni. Oh, adesso questa è la foto. Poi ma non la vedono, è la radio, deve dire che cazzo sta mostrando. Allora, le scarpe, prova, questo è un CD dove noi nel 72 ottimo. Abbiamo le scarpe e stanno in prima pagina qui. Vero? Quando avrete che sono uguali a quelle di Lady Gaga? Identiche, eccole qui. Questa è di Lady Gaga e queste sono le nostre ma scarpe. Ma levategli i sordi, levategli no, i non gliele levamo, ma noi non ci interessa. Noi ammiriamo molto Lady Gaga, però la deve far finita e gli rispondiamo così. Vai. Allora, a cappella, a cappella. Lady Gaga. No, però allora, tutti scusa, insieme. Okay, 3, okay. 4. Lady Gaga, no, perché lo fai? Vestita con i tacchi miei. Lady Gaga, no, baffa l'uovo, Lady Gaga. Ma cosa, scusami Ivano, ma cosa invidiate a Lady Gaga voi? Qualcosa invidiate? I soldi, il conto in banca? I soldi, devo dire, beh, pure un pochino pure la vagina e no, ma dai, da che invidi? No, la vagina di Gaga, ma dai. Tu che sei un ragazzo, io a una certa età l'andropausa avanza e perciò mi vedo tutto bene. Ma scusa, una bella causetta in tribunale. Sì, possiamo no? fare questo, Giuseppe? Perché non chiamiamo in diretta l'avvocato Taormina e chiediamo un consulto se può seguire questa causa? Scusa, ma se uno copia in maniera così chiara una roba, uno può cioè magari esce fuori, che ne so, ma una conoscete 50... l'avvocato Taormina voi? Sì, è nostro amico, l'abbiamo lanciato noi nel mondo dello spettacolo. Senti Ivano, silenzio, ma... voglio dire una cosa. Sì, prego, Ivano, porca dimmi, vacca, me la sono scordata, è una cosa molto seria, era molto seria. Te la sei ricordata adesso, sì? No, no, non me la sono ricordata, potete continuare. No, ma scusa, abbiamo detto vorrei far causa a Lady Gaga. No, infatti questa cosa qui non è, anche perché voglio dire non la faremo mai questa causa, perché detto scherzi a parte, come si fa a pensare che noi si imiti Lady Gaga? Non ma no, ma quello no, l'avete mostrato con le carte allora, in mano. Vogliamo dire che uno ci imita, è come quando abbiamo iniziato già negli anni 90, non mi c'è a dire dai però cugini voi avete copiato i Bee Gees e cantate così uguali, mi incazzo! Perché no, ti cazzi? No, perché ti cazzi? Non è semplice. Non si adiri. No, io mi adiro moltissimo perché i cugini, allora, Bee Gees nascono negli anni, fine anni 60, fine anni 70, con My World, con Massachusetts, cantata da Gibbs. Che da Gibbs. Andy Gibbs. Era il bambino, era il terzo dei Bee Gees, che cantava col naso. Col naso cantava. E cantava appunto My World and His World, cantava così, bellissimo, grande successo nel mondo Massachusetts. Nel 78 un giorno arriva un bambino che era già un'altra volta insieme a un altro produttore che aveva 35 dollari in tasca, hanno preso i biglietti, ci aiutate, fate la colonna sonora, e hanno fatto La febbre del sabato sera. E voi avete fatto quale? Come la fanno? In falsetto. Non dico che ci hanno imitati, però non bisogna dire, perché noi nel 73 abbiamo iniziato con le canzoni tipo che Innamorata, com'era? Com'era? Ricordi mamma mia con le vesti curta, un tempo ti tenevo tra le braccia. Allora io vorrei concludere con Ivano. Ivà, ma c'è ancora quella pancia che ho visto in un servizio con Luci? Sì, purtroppo. Mamma mia, oh. Ma lì io finché mi sono scoperto la pancia è stata una cosa micidiale, perché ma quanti soldi avete fatto fino adesso? Hai fatto un conto? Coi diritti. Quanti soldi? Io rispondo molto educatamente, ma perché te fai i cazzi? No, ma io sono nato per farmi i cazzi degli altri. Ha ragione, ogni volta che mandano quanto centesimo, a parte le trasmissioni quando si canta in televisione, che uno guadagna tantissimo. Non mi dica c'hai buffi, non mi dica c'hai buffi. No, macchi, ma lasciamo perdere i nomi. Io ti dico soltanto una cosa importante. Io sono Ivano Vicchietti dei Cugini di Campagna, sono uno dei 1100 soci della SIAE. Vabbè, ma questo chi se ne frega della SIAE? Tu fai uno scoop della c'è l'orologio d'oro, c'è l'orologio d'oro. C'è l'orologio, e che vuol dire? Che c'è l'orologio d'oro, gli iscritti sono 300-400 mila che pagano la SIAE 200 euro l'anno per tutelarsi. I soci guadagnano. I soci siamo 1100. E allora? I soci sono, si sa, no? Da Battisti allora? A tutti. Cosa è successo? Che per 40 anni la SIAE ci ha tolto il 4% per metterlo nel fondo solidarietà soci. In modo che uno poi a 60 anni c'è ricevesse la pensione. Invece adesso? Invece se la siamo. Vabbè, perché? La SIAE non ha pagato la pensione. Quindi hai perso dei soldi, questo stai dicendo. C'hai perso. No, a me non me ne frega niente. Perché io sono contento perché adesso, non dandoci la pensione a 60 anni, cosa è successo? Ma tu fai l'artista, ma che te frega dalla pensione? Appunto, perché stai a farsi da galista? Ma che fai il sindacalista? Ma tu sei un cugino di campagna? Sì, io vesti da donna, che cazzo te ne frega della pensione? Bravo, chi se ne frega? Ma ci sono autori vabbè, che pazienza. Vivono con quello. Hai ragione, questo è un grande tema che ti prometto affronteremo. Affronteremo sicuro. Ma io te lo dico. Senti, Roberti, Ivano, scusate. Ma tu quando sei diventato famoso? Hai iniziato a scopare come un pazzo? Cioè, che domanda anima mia, quanto ti ha fatto scopare? Anima mia. Un botto. Mica sono avviato. Andavano sempre dal biondino, da sti cornuti, che poi questi mi hanno. Vabbè, qualcosa rimaneva però. qualcosa, sì, sì. Ma le briciole me le pappavo tutte io proprio. Cioè, anima mia, oltre ai soldi ti ha dato un sacco di figa. Mi ha dato un sacco, ma tanta me l'ha data. Devo dire che i tecnici poi stavano tutti con me, perché io essendo il leader dicevo ragazzi, quando arriva una ragazza soprattutto carina che vanno da Daniel, vanno da Tiziano, facciamo una bella cosa. Primo fate annusare a mio fratello Silvano. Lo Ius Prime Noctis praticamente. Ah, Silvano lo Ius Prime Noctis? Sì, praticamente, ecco, perché lui è l'avvocato del gruppo. Capito? E poi? Mettiamo tutto a verbale. E poi io esprime nozzi. Infatti noi adesso godiamo la nostra pacatezza dei di sensi, cioè, ormai non te tira più, ormai non te tira più. No, il biondo, no, il biondo lo vedo particolarmente il biondo che carico, c'è, il biondo carissimo. Daniel, biondo, lo vedo bello carico. Ragazzi, vi saluto, vi mando a fare il culo. Ciao ragazzi, ciao. La mia specialità è lo squirting, amore. Beh, amica mia, Parenzo! Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Bruciare, cos'è lo squirt? Mi visita un dottore, mi disse non è niente, è nettare d'amore. No, io faccio altre cose. Io cago addosso ai clienti. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Scopri la finanza digitale, Rimini, IT Forum, 18 e 19 maggio. La Zanzara. Parenzo, quando vuoi. Allora Cruciani, il tuo cappello poteva essere disegnato da Dolce & Gabbana, Armani e tutta una miriade di froci che spopolano nel mondo della moda. A me non me ne frega un cazzo, faceva cagare, va bene? Ciao Crux. Peppe, racconto questa scena. Ieri sera, dopo due settimane che non scopavamo, mia moglie mi fa: tesoro, questa sera lo facciamo. Spegne la luce e mi dice: mi prenderesti per favore la crema lubrificante che ho nel cassetto? L'ho comprata oggi a Natura Sì, è biologico vegana. Mi sei ammosciato. Beh, lo posso capire, caro David. Cioè, compri una crema lubrificante, no? La compagna, la moglie ti compra una cremina e ti fa eccitare subito, chissà cosa vuole fare, no? Ti sarà capitato anche a te. Dottore è uscito con cugini di campagna, è andato a mangiare pollo che il signore cugino ha tagliato di fronte live show la zanzalla. Comunque, a un certo punto dice: no, questa crema però è biologica, biocazzo, eccetera. Ma ragazzi, su, dai. Ma come si fa? Dai, su. Siamo arrivati ormai alla follia. Ho letto delle cose negli ultimi giorni, oltre al materasso vegano, ho letto delle cose incredibili sul mondo animale. Incredibili. E stanno martirizzando in Gran Bretagna, in Inghilterra, Parenzo, quella... dei rich, no? Una di quella dei rich kids, non so come cazzo si chiama, che ha preso il suo maltese in mano, il suo cane maltese, senza procurare danno a questo cane maltese. Sì, apparentemente può sembrare una porcheria, ma se non si è provocato danno a questo cane maltese, che è stato utilizzato per praticamente lavare, per pulire una super macchina, non so se era una Rolls oppure un'altra macchina di lusso. È stato utilizzato il pelo di questo cane maltese, che non è stato martirizzato, non è stato colpito. Certo, può anche non sembrare una cosa elegante, ma alla fine lei si è servita del suo cane per pulire la macchina, la sua macchina di lusso, uno di questi rich kids londinesi, no? Tu subito a dire una porcheria. Una porcheria, te l'ho detto subito, una porcheria assoluta, un gesto inumano, inutile. Inumano, proprio... non è che l'ha sbattuto per terra sto cane. No, ma ha utilizzato il pelo inutile. Del maltese, ma sì, ha utilizzato il pelo del maltese. Non è perché sono ricchi, perché è stupido, non è ricco, perché è stupido. Sì, sarà anche stupido, io non lo farei, però sto dicendo. Le persone vanno divise, vanno non in base alla ricca, o povero, in base a intelligente o stupido. Ecco, sì, quelle persone che chiamano qui, cioè quello 0,9% della popolazione italiana è stupido. Ma per me è la maggioranza silenziosa. Ma non è vero, non è così, dai, non è così. Comunque, ragazzi, il professor Antinori ha segnato un punto a suo vantaggio. può tornare a fare il medico, lo ha deciso il Tribunale di Milano, dopo un anno di interdizione, sì, non dai pubblici uffici, può tornare a fare il medico, il mitologico professor Antinori. Io farei una telefonatina, però Parenzo, parla a tutti, prego. Cioè, parla, ci parli tu col professore? Sì, ok. Per vedere un po' che di umore, che, se è di un buon umore, se è capito, se è uno che vuole parlare, cioè, se ha qualcosa da dire, se è contento, cosa vuole fare adesso. Antinori, dai. Pronto? Ehi, Severino, sono Parenzo, ciao. Ah, Parenzo. Come stai, vecchio? Sono impegnato con gli avvocati. Niente, la notizia è buona. Tutto reiterato, mi hanno rimesso nella professione. Ti hanno rimesso, cioè puoi adesso continuare a far partorire niente, le anziane? No, io sto con gli avvocati. Scusami. Quali avvocati? Quali avvocati, amico mio? Gli avvocati. Ma quali avvocati? Non hai più bisogno di avvocati ormai, sei un uomo libero, vecchio mio. Sono innocente, ho subito una sì, punizione di un delitto mai fatto, capito? Ho capito, però adesso sei tornato adesso a combattere. Tornerò a Milano, a Milano verrò da due settimane e vado in Piazza del Duomo per cercare di fare... sollecitare la fecondazione. In Piazza del Duomo? Sì, con un banchetto. Ma come un banchetto in Piazza del Duomo? Un banchetto, sì. Ma davanti alla... Ma perché non c'è bisogno di andare in Piazza del Duomo davanti? Aspetta, Severino! Si può fare che in Italia si possono fare le cose ed è vergognoso perseguire... Ma perché davanti al Duomo? Per dare dimostrazione che noi siamo assolutamente per la vita, capito? Ma perché davanti al Duomo? Ti abbraccio, ciao. Non c'è bisogno, però. Aspetta, Severino! Non ho capito che cazzo vuole fare Antinori, mettersi davanti al Duomo? Sì, no, una cosa incredibile. Cioè, una mettersi protesta, davanti al Duomo a protestare per la vita? Sì, non ho capito perché. Per protestare, ma una notizia in esclusiva. Sì, ma stai, sì. Antinori si metterà con un banchetto davanti al Duomo. Dai, e così lo arrestano di nuovo. Ma poi per fare cosa? Non ho capito. Cioè risolva i suoi problemi giudiziari, signor Antinori, no? Se ce li ha ancora. Là, abbiamo vinto. No, però era lucido. Hai sentito? Non era impastato. Non è impastato, però. Non era impastato. No, però l'ho sentito bene, con una voce squillante. Non era impastata come al solito, era chiara. Cioè, si capiva, non ha detto andiamo al banchetto avanti a Duomo, era chiaro, si sentiva, si capiva, sì, per cui per una volta secondo me gli ha fatto bene questo periodo, il carcere gli ha fatto bene, no, adesso è uscito da un po', insomma. Appunto. O era domiciliare in realtà, domiciliare, sì. Pronto? Allora, sì, vedi che è diversa la voce, sì. Pronto? Professore, sono Cusciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. Alessandro Varese, vai. Io lo preferivo quando era così. Alessandro, vai. Sì, pronto. Dimmi. Carissimo Cruciani, dimmi. Buonasera. Senti, io ciao, perché volevo capire cosa sta Parenzo con le figlie. No, non ho capito, però fatti capire meglio, amico mio. Stasera non mi voglio incazzare, sono tranquillissimo. È stata una bella trasmissione. Non mi voglio incazzare. Ti devo capire bene. Cerca di parlare meglio. Allora, mi sono appena fermato, così forse riusciamo a parlare meglio. Io sono Alessandro, il fidanzato della Ceccardi. Ma figurati se ci credo, dai. Ma figurati se ci credo che tu sei il fidanzato della Ceccardi? Passamela se vuoi, passamela. Io voglio parlare. Allora, mia fidanzata ha voluto chiamare Cruciani perché si è incazzato con Parenzo perché ha ucciso le Filippine. Allora, chiama le figlie. Vabbè, ma adesso tu che parli toscano non è che devi essere per forza la Ceccardi. Cioè, dammi una prova che sei la Ceccardi. E come? Che prova ti devo dare? Non lo so, dimmi qualcosa. Dimmi l'anno di nascita di Salvini. Il 73, se non sbaglio. Salvini, Matteo. Vediamo un po', Salvini, Matteo, Salvini. Mamma mia, se ho sbagliato, no, ti condannerà Salvini alla gogna perpetua. Comunque, se non sbaglio, 73. Allora, aspetta un attimo, Salvini, vabbè, adesso che c'è Kim Jong-un. 73. Allora, potresti essere, ma è vero che sei apparsa col Kalashnikov? Poi mi passi il tuo fidanzato. Sei apparsa a un certo punto col Kalashnikov? Pure. Voglio dire, no? Al tiro a segno me l'hanno fatto provare. Poi non ti hanno fatto provare il Kalashnikov. Ma io sono dalla parte tua su questo. Sono dalla parte tua. Di cosa c'è da vantarsi? No, ma la Ceccardi col fucile in mano e con la pistola in mano è una grande dimostrazione di libertà. La libertà è difendersi. Ma che messaggio difendersi. Uno non è che è obbligato a farlo, però se uno vuole. una pistola o un fucile in mano a un uomo che lo vuole e che vuole difendersi in questo modo, sarebbe un paese, cioè, capito, libero. Ma la signora Ceccardi, ma non ha da governare adesso, cosa ascolta la Zanzara? Ma che c'entra? Sta in macchina col fidanzato, no, che c'entra? Capito, io governo, questo è il famoso fidanzato delle Filippine, sì, no? Mi passi Alessandro, fidanzato che vive in quel paese totalmente dove non ci vuole nessuno. Siete convinti adesso? Sì vabbè, adesso sì, però rimane la questione di fondo, la gente dalle Filippine viene via per venire in Italia. Io sono un malato di Zanzara, ascolto questa trasmissione. Lei è un malato perché vive nelle Filippine, glielo dico io. Comunque rimanga pure lì, rimanete nelle Filippine e non tornate in Italia. Fallo parlare. Paese meno parente. Veramente, Cruciani, io ti adoro. Ma tu devi prendere Telese. Ti giuro, anche più simpatico, anche più bello da vedere. Cioè, davvero. Non si può più. Ma basta. Senta, ma posso chiedere una cosa? Ma com'è a letto con la signora Ceccardi? Com'è la situazione? Io sapevo che non avrebbe chiaro. Sta roba non è consentita. No, guarda che questa spara, posso mica, cioè, spara in che senso, scusa, che potrebbe essere inteso in mille modi. No, assolutamente, in tutti i modi così. Tu lo sai che Alessandro è diventata praticamente la nuova icona femminile della destra, una delle icone femminili, cioè dopo la Meloni, Meloni c'è la Ceccardi ormai, no? Dopo la Meloni. Io ci contavo, ma scusa, ma oltre da quanto siete fidanzati? Scusa, da quanto siete fidanzati? Da 3 anni, ma quello sta nelle Filippine, che fidanzata? È un rapporto a distanza, dai. Praticamente inesistente. Ma va, Parenzo. Ma senti un po'. Ma è uno straordinario rapporto a distanza. Rimanga lì nelle Filippine. Lei e tutti gli altri. Te lo racconto così, Parenzo, su cazzo. Almeno comunque. Allora, dimmi, come vi siete conosciuti? Dimmi. Allora, ai tempi io ero coordinatore del movimento Tea Party in Lombardia. Del movimento? Okay. Tea Party, hai presente i Tea Party? Sì, come no? Sì, figuriamoci. E poi sei diventato leghista dopo? No, io sono ancora anarcocapitalista. Io non niente. Sì, però, amico mio, parla meglio. Non è che sei viva voce, la conosci la Zanzara? Non si capisce, viva voce, auricolare, qualcosa ci deve essere, no, dai. No, ti assicuro. Vabbè, allora? Allora? Ti sto dicendo. E ci siamo conosciuti quando la Ceccardi mi ha invitato per una scuola politica che stava tenendo. Ma dopo quanto tempo siete finiti a letto? Vabbè, questo si può dire, dai. Da qualche mese, via. No, dopo qualche mese. Vabbè, ci siamo conosciuti lì, ci siamo piaciuti, ci siamo stati simpatici, poi ci siamo rivisti e dopo di che. Sì, ma dopo quante volte che vi siete incontrati? Cioè, voglio dire, una da quel punto di vista, è diffidente? Oppure... No, questo non si può dire. Non si può dire, dai, su, cioè, non è che non si può dire. Vabbè, lo so, dopo 4-5 volte ci siamo visti, non lo so. 4-5 volte, si può dire. 4-5 volte. E poi ha pensato bene di scappare nelle Filippine. Ma beh, lavora nelle Filippine. Ma chi lavora nelle Filippine? Ma chi è che lavora nelle Filippine? Ma cosa vuol dire lavorare nelle Filippine? Se le Filippine vengono in Italia, cosa vuol dire lavorare nelle Filippine? Ti piace il Parenzo? Come? Che fai nelle Filippine, Alessandro? Ma cosa vuoi che faccia? Ma... Il manager guadagna un sacco di soldi. Questo il manager si fa in Italia, non nelle Filippine. Ma che roba è? Ma che roba è? Ma ci sono un sacco di multinazionali. Dai. Ma voti Lega o no? Voti Lega o no adesso? Ma guarda, io da questo punto di vista ho smesso di votare anni fa. No, dimmi che io sono sicuro che tu non voterai Lega. No, io guarda, dico. Io guarda, voto la Ceccardi perché sono un fan della Ceccardi. Vabbè, ma la Ceccardi non la puoi votare a Varese. È a Varese, che cazzo voti la Ceccardi? Non la puoi votare. Ma voti se oggi no. Dovessi votare, chi voti oggi? Oggi chi voti? Oggi? Forza Italia. No, sinceramente no. Forza Italia, nuova. No. Forza la Lega, Filippine. La Lega non l'ha mai votata, diciamo la verità. Mai. Sinceramente l'ho votata. Vabbè. Ancora vabbè. Una volta. Ma io non sono mai stato richiesto, dico la verità. Questo lo posso dire perché chi mi conosce non sono mai stato leghista da questo punto. Non sono mai stato leghista, lo vedi? Anche se sono da questo punto di vista fieramente. Vabbè, non si capisce niente, Alessandro. La prossima volta. Ciao. Claudio, Roma, vai Claudio. Chiudi la baracca, ragazzi, oggi voglio recuperare tutto il tempo che mi hanno fatto perdere. Claudio, non me ne frega un cazzo. Non me ne frega nulla, Claudio da Roma. Protestassero, allora, facessero quello che vogliono. Alle 6:30, quando sì, tu eri arrabbiato che dici avevi attaccato 3 minuti dopo, no? Sì, però veloce, amico mio. In maniera un po' ironica, volevo dire, vabbè, se siamo risparmiati 3 minuti di parolacce. Cazzata pazzesca. Però questa non è la cosa importante. E cioè, qual è la cosa importante? Mi fai parlare perché non riesco a sentire, un po' di confusione. No, ma c'è una musica che dobbiamo chiudere, per cui devi essere veloce. Ti recupero la settimana prossima. No. Gianfranco dalla provincia di Latina, vai, Gianfranco. Dottor Cruciani, vai, dimmi. Eccoci. Che senti, mi vuoi raccontare, amico mio? Dimmi. Ti volevo raccontare la mia esperienza riguardo i centri massaggi, visto che... Ma dove? Che posto? Che posto? Un argomento ricorrente. Dove? Che posto? Niente, ti volevo dire che io in uno di questi centri, che poi fra l'altro di cui sono frequentatore, allora? Non solo cinesi, perché ci sono pure quelli italiani, comunque, tenuto da... Vabbè, italiani. Allora? Niente, ho una storia con una ragazza cinese che ho incontrato lì. Ma la storia che vuol dire? Che ti sei fatto la storia fuori? Siamo insieme, sì, ci adesso vediamo. Passamela, passamela. No, adesso non c'è vicino a me, non c'è. La settimana prossima me la passi però? Vediamo, dai. Dai, ti chiamo, ciao. E comunque molto positiva la cosa. Ma certo, sei fidanzato nei, nei centri massaggi cinesi, non vita, vita reale. Altro, ciao, ciao. Aspettiamo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Parenzo, quando vuoi.